non c'è nulla di nuovo, sono situazioni che noi esattamente dal 2002 che stiamo segnalando e denunciando a tutte le competenti istituzioni. Non sappiamo di quali imprese si tratta, abbiamo solamente qualche vago sospetto, ma non avendo informazioni precise ancora non possiamo dirlo, e il fenomeno è sempre quello. Però la novità di questa operazione sta nel fatto che è stata applicata la legge 199 del 2016, meglio conosciuta come la legge per il contrasto al caporalato in agricoltura. Per la prima volta viene nominato un amministratore giudiziale, il quale dovrà garantire la continuità produttiva di queste aziende per non pregiudicare l'occupazione dei lavoratori coinvolti in queste aziende. Il fenomeno però è sempre lo stesso, anche se non si parla di false cooperative, stiamo sempre parlando dei soliti sistemi, utilizzo degli appalti per nascondere l'intermediazione illegale di manodopera, come sembra essere stata scoperta in questa operazione. In particolare, sto leggendo da un'agenzia, si parla di una vera e propria filiera di somministrazione e utilizzo di manodopera composta da aziende tra loro direttamente collegate, quindi un intero sistema. Ma presumo, leggendo anch'io queste agenzie, che stiamo parlando di un consorzio. Se sono legate vuol dire che c'è un consorzio che le teneva insieme con i soliti prestanome, ma siamo nel campo dell'ipotesi, anche perché, come sempre accade, i nomi delle imprese, sia utilizzatrici che delle imprese appaltatrici, non vengono mai fatte, e quindi abbiamo bisogno di avere dei riscontri dal territorio, perché un'operazione del genere non può passare inosservata. I lavoratori venivano sfruttati e tenuti in condizioni degradanti, approfittando del loro stato di necessità e di bisogno. Anche questo è un tema che avete affrontato più volte. Sì, tra l'altro sono di quegli indici di sfruttamento che la legge 199 prevede in modo molto chiaro per determinare proprio il caporalato, cioè l'intermediazione illegale di manodopera, e quindi far partire anche le sanzioni di tipo penale. In questo caso hanno applicato la legge proprio per consentire a queste imprese di poter continuare a lavorare, nominando proprio un commissario giudiziale che ovviamente dovrà garantire la continuità lavorativa di queste imprese. Però, ripeto, non siamo ancora a conoscenza del dettaglio dell'operazione. Sappiamo che molti dei lavoratori sfruttati in questo comparto, così come in altri, sono migranti, e al di là delle condotte fraudolente, insomma, delle singole aziende, c'è anche la legislazione che riguarda l'immigrazione, che favorisce anche lo sfruttamento? Per forza. Favorisce, perché qui la stragrande maggioranza dei lavoratori coinvolti nei ginepraj di appalti, di subappalti, sono lavoratori immigrati, e quindi quasi tutti col permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno purtroppo è un cappio al collo di questi lavoratori, perché nel momento in cui si ribellano oppure protestano vengono lasciati a casa, e dopo pochi mesi, se tu non hai mica un'altra occupazione, cadi nella clandestinità. Quindi purtroppo è un pesante deterrente per i lavoratori immigrati far valere i propri diritti, ma si vede che in questa situazione scoperta dalla Guardia di Finanza si era andati oltre alla decenza, come spesso capita nel sistema degli appalti, sia in agricoltura ma anche negli altri settori. Spesso consideriamo il problema del caporalato un problema che riguarda soprattutto il Sud Italia, quindi non è così. Ci sono stime, ci sono numeri? Sì, noi calcoliamo che ci siano 400.000 lavoratori in agricoltura in tutto il nostro paese in situazioni di grave sfruttamento lavorativo, come raccontiamo nei nostri rapporti agromafia e caporalato. Per quanto riguarda il nostro settore, quello della macellazione e lavorazione delle carni, stiamo parlando di migliaia di lavoratori solo in Emilia Romagna sotto il sistema degli appalti. In più, anche nell'agricoltura della nostra regione, come spesso accade anche abbastanza recentemente, anche poche settimane fa, in particolare nel territorio della Romagna, il sistema è sempre lo stesso. Stiamo sempre parlando di false imprese, false cooperative, SRL, farlocche, che attraverso la legislazione molto permissiva degli appalti nel settore privato gli consentono di sfruttare lavoratori, evadere tasse, eludere l'IVA, non pagare i contributi, non pagare l'IRAP e via dicendo.